Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. La mia più grande paura in generale della mia vita è non rivedere più l'Italia. Ho deciso di partire più per prendere uno stacco dall'Italia grosso. Sto a posto, sì, sono qua, devo fare farm adesso su fattorie. Sono scappato, diciamo, dall'Italia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. L'Australia farà da sfondo a questa puntata del programma, come avete appena sentito in questo estratto dal videodocumentario 88 giorni che potete trovare online. Tra poco tutti i nuovi dati sulla nostra emigrazione agli antipodi. Attenzione, perché approdano sulle nostre frequenze anche i migliori 30 under 30. Ci sono infatti numerosi giovani italiani espatriati nella prestigiosa classifica internazionale stilata anche quest'anno dalla rivista Forbes sui leader del futuro. Da oggi Giovani Talenti comincerà a raccontarvi le storie di alcuni di loro. La prima, tra poco, arriva dalla Gran Bretagna. E infine, attenzione, a brevissimo, i nuovi dati esclusivi sull'emigrazione italiana aggiornati al 31 dicembre 2015, elaborati dall'Anagrafe Italiani Estero per Giovani Talenti. E la frase della settimana è copyright di Giorgio Squinzi, presidente uscente di Confindustria. Le nostre università sono ancora un'eccellenza, ma dobbiamo evitare che i giovani vadano all'estero. Il governo si deve focalizzare su questo con meccanismi incentivanti per trattenerli. Col 40% di disoccupazione giovanile, il paese non ha futuro. Non bisogna pensare a gestire le prossime elezioni, ma le prossime generazioni. Così Squinzi. E spesso semplicemente è questione di attrattività. Prendiamo il caso degli sviluppatori. Sono richiesti ovunque, ma qui in Italia sono pagati meno della media. L'ultimo developer survey di Stack Overflow rivela il gap retributivo tra i nostri professionisti e la media internazionale. I developers italiani con oltre 5 anni di esperienza risultano trentesimi in una classifica di 36 nazionalità per valore dello stipendio rapportato al potere d'acquisto, alle spalle di quasi tutti i paesi europei. Lo riporta Il Sole 24 Ore. Gli sviluppatori italiani incassano l'equivalente di 34.000 euro annui, oltre 11.000 in meno rispetto alla media comunitaria, un gap che in un'epoca sempre più digitale non possiamo permetterci in quanto sistema paese. E ampliando il discorso, quanto siamo attrattivi per i nostri migliori professionisti all'estero? Sentite questa illuminante riflessione. Qui le aziende cercano loro, sono loro a cui fai un favore se rispondi a un annuncio. In Italia l'impressione è che si è in posizione di coloro che domandano per essere presi da un'azienda. Giulia Pastorella, 29 anni, è Government Relations Manager per una multinazionale in Gran Bretagna ed è una dei 30 under 30 talenti mondiali censiti da Forbes. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura, come vi anticipavamo, gli ultimi dati dell'Anagrafe Italiana Residenti Estero in esclusiva per Giovani Talenti. I 20-40enni sono divenuti formalmente maggioranza assoluta sul totale degli espatri dall'Italia nel 2015. Lo scorso anno la fascia di età tra i 20 e i 40 anni ha fatto registrare oltre 54.000 espatri, più della metà dei circa 107.000 totali. Non era mai successo, almeno nell'ultimo quinquennio. L'Europa resta la meta prediletta dei nostri emigrati, in testa la Germania con oltre 16.000 expat italiani, tallonata dalla Gran Bretagna, poi la Svizzera. A seguire Francia, Brasile e Stati Uniti, decima all'Australia. Tra i 20-40enni è però il Regno Unito la vera terra promessa davanti alla Germania. Per quanto riguarda le regioni di provenienza, domina sempre la Lombardia con oltre 20.000 espatri in un anno, seguita da Veneto e Sicilia. Infine, in 10 anni sono emigrati ben 817.000 italiani, quasi 5 milioni i connazionali ufficialmente residenti all'estero lo scorso 31 dicembre. E ora gli ultimi dati sull'immigrazione italiana in Australia. A fornirle una ricerca della Fondazione Migrantes, presentata pochi giorni fa a Roma nell'ambito dell'evento Giovani Italiani in Australia, un viaggio da temporaneo a permanente. Ci spiega tutto uno dei curatori della ricerca, Michele Grigoletti. Per il terzo anno consecutivo, la presenza dei giovani italiani in Australia ha superato le 24.000 presenze. E questo ci porta ad un livello, ha superato il livello degli inizi degli anni 50. Nel 1950 e 51 erano presenti in Australia 19.000 italiani che erano emigrati. C'è proprio una trasformazione del fenomeno migratorio italiano degli ultimi anni. Oltre ai giovani da 18 ai 30 anni con un visto vacanza lavoro, che questa è una presenza enorme, più di 14.000 nell'ultimo anno, vi sono anche tantissimi italiani che arrivano con visti studenti, più di 5.600 persone. Però oltre ai residenti temporanei dobbiamo includere anche i residenti permanenti e gli italiani che hanno acquisito la cittadinanza australiana. Quindi abbiamo 1.350 cittadini italiani che hanno ottenuto la residenza permanente, e questo permette poi conseguentemente di ottenere la cittadinanza australiana. Dovendo quantificare il flusso, siamo sui 24.000 in un anno, poi alcuni si fermano, altri devono tornare, giusto? Certamente. Voi avete incontrato questi ragazzi, li avete intervistati. Perché lasciano l'Italia e perché scelgono l'Australia? I giovani italiani lasciano l'Italia perché non hanno lavoro o fanno fatica a trovare un lavoro, e scelgono di partire dall'Italia e l'Australia perché l'Australia è una delle nazioni più lontane rispetto all'Italia. Scelgono l'Australia perché poi scoprono che l'Australia appunto è una terra piena di opportunità e di possibilità. Bisogna anche togliere l'idea che l'Australia sia un Eldorado, non lo è, bisogna fare molti sacrifici, bisogna lavorare duro. Investire le proprie capacità in Italia per aiutare l'internazionalizzazione delle imprese tricolori, questa è la sfida del programma Invest Your Talent in Italy 2.0 dedicato a studenti stranieri. Previsto un percorso formativo in una delle università partecipanti, completato da un tirocinio in azienda. A incentivare la partecipazione 40 borse di studio. C'è tempo fino a fine aprile per inviare la propria candidatura. Info su investyourtalentapplication.esteri.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Gran Bretagna, paese che attira i nostri migliori talenti come una calamita. Andiamo a capire perché. Nome: Giulia. Cognome: Pastorella. Età: 29 anni. Città di origine: Milano. Studi: laurea in filosofia e lingua straniera a Oxford, master a Sciences Po alla LSE in studi europei, dottorato alla LSE. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2003. Per andare dove? In Inghilterra. Perché? Per amore della letteratura e della cultura inglese. Quale lavoro svolge attualmente? Relazioni istituzionali per Hewlett Packard. Dove? A Londra. Tornerai? Sicuramente. Mind the gap. Please leave the train. Please note that this train will not stop at the next station. Thank you for traveling on the Central Line. Ho sempre in testa l'idea di tornare in Italia, ma dall'Italia non sono mai arrivate offerte spontanee di lavoro, e quando sono stata scovata da cacciatori di teste su LinkedIn, non erano mai cacciatori italiani. Annoti Giulia alla fine della lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it. Ti chiedo provocatoriamente: per venire notati dal proprio paese, cosa serve? Il premio Nobel? Non basta essere fra i 30 migliori under 30 di Forbes? Non penso sia questione delle qualità o del curriculum, penso sia questione dell'atteggiamento. Qui le aziende cercano loro, sono loro a cui fai un favore se rispondi a un annuncio. In Italia l'impressione è che si è in posizione di coloro che domandano per essere presi da un'azienda. È un cambio di mentalità e di prospettiva interessante. Grazie per averlo anticipato. Studi al liceo scientifico, in quarta liceo avviene il tuo primo importante contatto con l'estero, un anno di studi in Inghilterra. Cosa ti ha insegnato quell'esperienza anche in termini di differenze tra i due sistemi educativi? Sicuramente le differenze che ho notato sono state molte. In Inghilterra l'attenzione è molto sul pensare, sul criticare, sull'argomento. In Italia era più sull'imparare, sulle nozioni, sull'accumulare conoscenza. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. E allora Giulia, quanto quell'esperienza ha influito sulla tua decisione successiva di fare l'università a Oxford? Sicuramente molto, per due motivi, uno pratico e uno un pochino più di contenuto. Quello pratico è che l'anno all'estero l'ho passato a 20 minuti di autobus da Oxford, sono andata spesso a Oxford, ho avuto l'occasione di visitare e di capire un pochino di più la cultura dell'università, e inoltre sono venuti alla nostra scuola lì in Inghilterra dei rappresentanti dell'università, degli studenti, che ci hanno incoraggiato e un po' spiegato questo complicato sistema di ammissioni. Ecco Giulia, quanto è difficile entrare a Oxford? È difficile se non si conosce quali sono quello che è richiesto, insomma, perché è un esame o una serie di esami molto diverso, non è basato su ciò che si sa ma su come si pensa, e come in molti esami, una volta che si è capito il formato, la metà del lavoro è fatto. A Oxford ti laurei con lode in filosofia e lettere moderne. Apriamo e chiudiamo una parentesi: perché durante l'università ti trasferisci un anno a Parigi e quanto quell'esperienza ti ha aperto gli occhi sull'importanza di fare stage estivi? Mi sono trasferito un anno a Parigi perché era obbligatorio all'interno del mio corso di laurea. Ho deciso tra le varie opzioni di andare a lavorare perché i miei compagni inglesi avevano già fatto alla loro tenera età diverse esperienze lavorative, io ero rimasta indietro. Mi ha permesso quindi di avere un lavoro a tempo pieno, ancora essendo studentessa universitaria. Conclusa la laurea, dove orienti le tue scelte di carriera? Ho deciso di andare più in maniera pratica verso la politica, o meglio le politiche. A Sciences Po, dove appunto ti iscrivi, fai le prime importanti esperienze di lavoro nel settore dei cosiddetti public affairs, attraverso una società di consulenza interna alla stessa università. Come funziona funziona esattamente e soprattutto esporteresti in Italia questo modello? Sicuramente è un modello che ho ritrovato anche alla London School of Economics e ha due vantaggi. Abito gli studenti ad avere a interfacciarsi con il settore privato e il pubblico, perché i clienti che fanno ricorso a questa consulenza possono essere di entrambi i campi, ma allo stesso tempo permette al settore privato e pubblico di approfittare di competenze esistenti all'università che spesso non sono messe in valore. Quindi è un modello che esporterei sicuramente. Ecco, in Francia ricordiamo fai un master e insegni relazioni internazionali. Quanto è facile, se hai talento e buone idee, avere opportunità nei migliori atenei esteri? Quanto contano le capacità rispetto all'anzianità o alla fedeltà? Quando ho cominciato a insegnare in realtà è stato perché un professore italiano mi ha chiesto di aiutarlo, quindi questa è una parentesi. Sicuramente all'estero è più semplice perché c'è un sistema, una struttura che permette in maniera diciamo quasi automatica a tutti gli studenti di diventare insegnanti, per cui alla fine del dottorato, se si è fatta domanda, chiunque ha accumulato questa esperienza. Quindi sì, è un sistema che non è basato né sulla la fedeltà né sull'anzianità, ma è proprio fa parte dell'università in sé. Hai da pochissimo concluso il dottorato, il tuo lavoro principale, ricordiamolo, quello di Government Relations Manager per una multinazionale. In cosa consiste esattamente? Cerco di favorire il dialogo tra il settore privato e il pubblico su diverse politiche, aiuto in questioni di appalti pubblici e cerco di sviluppare anche quella che noi chiamiamo una thought leadership per l'industria. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giulia Pastorella, 29enne Government Relations Manager per una multinazionale in Gran Bretagna. Giulia figura in una prestigiosa classifica della rivista Forbes che le ha dato l'accesso all'Olimpo degli under 30 di talento mondiali. La sua storia e la sua visione dell'Italia come terra anche di opportunità professionali sono al centro della puntata odierna. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani Talenti. Nel mio lavoro trovavo sempre davvero complicato capire il sistema italiano e ottenere di parlare con la persona responsabile del tal dossier, noti con spirito critico. Questione non da poco per chi si occupa di affari pubblici. Allora, ti chiedo, è una questione di opacità del nostro sistema? Parli con qualcuno solo se hai le connessioni giuste? Temo di sì. Qui in Inghilterra è addirittura l'opposto. Non è solo questione di opacità, ma è anche questione di istituzionalizzare il rapporto tra il settore privato e il pubblico. Faccio un esempio. Qui in Inghilterra, per la nostra azienda, per Hewlett Packard, abbiamo un rappresentante all'interno di un ministero dedicato ad aiutarci a navigare le complessità del governo. Una cosa così in Italia sospetto sia impensabile. Recentemente hai anche cofondato Hackett Consultancy ed è arrivata soprattutto la nomina nella classifica di Forbes nei 30 under 30. Te l'aspettavi? No, assolutamente no, forse perché non mi è ancora chiaro nemmeno oggigiorno su quali criteri si siano basati. Ho molti coetanei, compagni di master e così via che sono altrettanto qualificati, quindi ero un po' stupita. E come è stata motivata? È stata una nomina sulla base del curriculum in generale, quindi non solo della mia posizione attuale, ma di tutto il percorso che avevo fatto. E allora ti chiedo, è cambiato qualcosa dopo questa nomina nel tuo paese? L'Italia si è ricordato di avere un'importante risorsa all'estero dal profilo assolutamente internazionale quale il tuo? Sicuramente a giudicare dai gentili articoli di qui e di là che sono stati pubblicati, sì. Quello che mi ha stupito è che gli articoli in Italia hanno messo soprattutto l'accento sul fatto che io sia donna ed è questo che li ha stupiti. È un aspetto a cui non ho pensato onestamente. Qui in Inghilterra non mi penso mai come donna prima e poi professionista. Forse in Italia c'è ancora questa mentalità. Ho un senso di colpa implicito, chi lo sa. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Direi che quello, il problema principale che è alla base di tutto, sia dalle visione evasione delle tasse fino ai problemi di lobbying e della mancanza di trasparenza, è direi la cultura civica o la mancanza di cultura civica, mancanza di fiducia tra lo Stato e i cittadini. Direi che la proposta concreta da cui ripartire sarebbe di adottare un modello in cui lo Stato non è l'altro con la A maiuscola, ma diventa un alleato, e l'unica maniera per fare questo è facilitare la vita ai cittadini. Ci raggiunge ora in linea Alessandro Pavesi, presidente di Assorel. Buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, grazie. Alessandro Pavesi, lei richiamerebbe in Italia un talento come Giulia Pastorella? Sicuramente non penso che l'Italia possa essere indifferente al talento suo di Pastorella, sicuramente non è indifferente al talento di tanti altri giovani che sono andati a fare esperienza all'estero, però qui è anche un problema talvolta di incrocio tra domande e offerte e soprattutto anche una considerazione: che tipologia noi abbiamo a livello industriale nell'ambito della industria delle relazioni pubbliche. Partiamo dall'inizio, ci riassume brevemente cos'è Assorel e chi raggruppate? Certamente, Assorel è l'associazione italiana delle agenzie di relazioni pubbliche che rappresenta le più importanti società nazionali e internazionali che operano nel settore. È stata fondata nel 1982, quindi anche già una determinata anzianità, e tra gli obiettivi ovviamente a suo tempo annunciati e tanto più portati avanti in questi anni è quello di diffondere la cultura della comunicazione d'impresa per le relazioni pubbliche nel nostro paese. Torniamo al punto che aveva un po' accennato. Le chiedo: quanto è sviluppato in Italia il settore delle relazioni pubbliche, soprattutto se paragonato al contesto internazionale? L'industria delle relazioni pubbliche in Italia è in una fase di grande trasformazione, soprattutto per l'avvento delle nuove tecnologie digitali. Fondamentalmente è stato negli anni passati, nei decenni passati, un settore legato alle media relation. Oggi invece si sta trasformando, soffre questo sì, di una polverizzazione con tante piccole agenzie. Dico un numero che può far meglio capire questo tipo di situazione: delle prime 250 agenzie mondiali nell'ambito appunto internazionale, noi abbiamo solamente 2 società per fatturato. Ecco, e allora forse è proprio questo, le chiedo, che impedisce di riattrarre con offerte e prospettive di carriera importanti giovani talenti come Giulia nel settore delle relazioni pubbliche? Ma può anche essere proprio questo, esatto. La polverizzazione del settore non ci permette talvolta di avere uno sguardo completamente internazionale, cioè sono le multinazionali spesso estere che vengono in Italia e aprono le loro agenzie. Difficile che accada il contrario. Quindi auspicabile anche che il nostro settore delle relazioni pubbliche italiane porti in un domani ad avere dei campioni nazionali che possono competere anche all'estero e quindi avere anche dei clienti esteri per attrarre poi dei talenti che abbiano una visione internazionale come quella della nostra amica. Giulia, hai una domanda per Alessandro Pavesi? Se lei dovesse consigliare a un giovane che volesse intraprendere una carriera nel settore delle relazioni pubbliche, cos'è meglio, partire dall'Italia oppure andare direttamente all'estero? Io consiglio di partire intanto dall'Italia, perché l'esperienza, come ho detto prima, qualificante che le nostre agenzie italiane offrono, al di là del fatto che soffriamo di questa polarizzazione che abbiamo prima ricordato, è comunque estremamente qualificante. Un'esperienza italiana ci vuole. Può partire ovviamente da quello che è una situazione anche tra virgolette locale, e su questo tipo di esperienza poi si può costruire anche un'esperienza internazionale. Allora, grazie ad Alessandro Pavesi, presidente di Assorel. Domanda finale di rito per Giulia Pastorella: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Gli direi: penso due volte, perché l'estero non è una maniera di risolvere i problemi. Consiglio veramente di avere un piano chiaro in testa, di non andare all'estero perché si pensa che tutto sia necessariamente meglio. Non è così, bisogna avere le idee chiare e veramente una volontà di fare qualcosa che sia legato all'estero, che non sia solo l'estero come una scappatoia per i problemi a casa. Continua anche ad aprile l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 14 maggio, 10 settimane, e che da quest'anno vi chiede di immaginare la vostra Europa. Nelle prossime settimane sceglieremo 4 di voi per un viaggio a Strasburgo. Per partecipare dovete avere tra i 18 e i 35 anni e dovete inviare da ora fino alla mezzanotte di domani una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta. Il tema di questa settimana: indicateci una proposta in 140 caratteri per trasformare e rinnovare il progetto Garanzia Giovani Europea, ampliandolo ulteriormente su scala continentale. Quindi una proposta su Garanzia Giovani. Inviateci le vostre proposte con i dati di contatto a concorsoeuropa@radio24.it e pubblicatele su Twitter con l'hashtag Giovani Talenti UE. Attenzione, potete scriverci solo fino alla mezzanotte di domani, e nell'oggetto non dimenticate la parola chiave, che questa settimana è Europa 2016, ripeto, Europa 2016. I primi 4 classificati si aggiudicheranno altrettanti viaggi studio al Parlamento Europeo di Strasburgo. Vi ricordo ancora la casella email concorsoeuropa@radio24.it. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Restiamo in Gran Bretagna per raccontarvi un sito che porta online il mondo della nuova emigrazione italiana oltremanica. Si chiama Londra Chiama Italia e l'ideatrice è Cristina Carducci. Londra Chiama Italia è un blog dedicato agli italiani che vivono a Londra o vorrebbero viverci. E è nato nel 2013 dalla mia esigenza un po' di tornare a scrivere, che è sempre stata la mia passione, e un po' raccontare la mia esperienza, quindi Londra attraverso i miei occhi, attraverso le persone che incontravo e le esperienze che facevo. Di cosa parli? Dunque, sicuramente la parte principale del blog sono le storie degli italiani che racconto, storie di persone che sono arrivate qui a Londra e hanno magari perseguito un percorso e spesso raggiunto degli obiettivi che magari prima invece neanche pensavano di poter raggiungere. Poi ho una sezione dedicata agli eventi e ai viaggi, è un po'... Un percorso nella città di Londra. Quindi da un lato racconti questa nuova immigrazione italiana, dall'altro però cerchi di dare forse una visione meno standard e meno da guida turistica a quella che poi è Londra. Esattamente. Quanto è diversa questa Londra vissuta in presa diretta rispetto a quella che si trova su una qualsiasi guida? Tantissimo. Londra non è tutta sbrilluccichi come a volte si pensa. Londra è una città meravigliosa che offre tantissime opportunità, ma è molto faticosa, per cui l'italiano che arriva qui veramente in pochissimo tempo si rende conto che per rimanerci deve, come si direbbe, faticare molto. Parlavi della nuova immigrazione professionale, allora andiamo a capire innanzitutto qual è l'identikit delle storie che racconti maggiormente. Dunque, i nuovi immigrati sono innanzitutto persone non più così giovani, non sono più solo gli studenti ventenni che vengono qui ad imparare la lingua, ma sono persone che decidono di lasciare l'Italia dopo i 30 anni magari. E sono tendenzialmente persone che cercano una realizzazione professionale che purtroppo spesso in Italia non sono riusciti a raggiungere. Al momento gli italiani a Londra continuano ad aumentare e secondo una stima del consolato nel 2016 probabilmente Londra supererà come numero di italiani residenti la città di Buenos Aires. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.londrachiamaitalia.com. Un motivo per restare o tornare. Giovani imprenditori in forte crescita nel 2015, gli under 35 hanno aperto lo scorso anno 120.000 nuove aziende, 46.000 delle quali nel mezzogiorno. Il saldo tra apertura e chiusura è positivo per 66.000 unità. Senza l'apporto degli under 35 lo stock complessivo delle imprese nazionali avrebbe fatto registrare una perdita di 21.000 unità. Questo è il ritratto dell'imprenditoria giovanile che emerge da Move Imprese. La vitalità imprenditoriale dei giovani italiani si registra soprattutto nelle regioni del mezzogiorno seguite dal nord-ovest. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Ed è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti, la stringa del mese Giovani Talenti UE, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di aprile. Al di là delle mete più classiche come Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti, quali sono a vostro parere i paesi nel mondo dove consigliereste un espatrio in termini di maggiori opportunità e di, se vogliamo, originalità della scelta? Quali sono insomma le nuove frontiere in un mondo globale che si evolve velocemente? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Allora attenzione, se siete under 40 ed espatriati, candidatevi. giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo voi. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon ponte del 25 aprile da Sergio Nava.